Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Carlo Calenda, quindi è stato un ritorno, viceministro. L'avevamo mandato a Bruxelles, non immaginavamo che succedesse lo scandalo che ha portato le dimissioni della Guidi. Mercoledì o giovedì massimo la legge, questa è una, credo, una notizia che ormai è ufficiale, mercoledì o giovedì l'Italia avrà una legge sui diritti civili. Credo che sia una cosa bella per tutte le persone, non soltanto per gli omosessuali. Lei è anche segretario del PD, questione morale nel suo partito. La questione morale del PD esiste, sì, punto. Cioè, chi la nega, nega la realtà. Siamo una comunità di 50.000 amministratori e purtroppo ci sono troppi casi di robe in cui le cose non girano. Quando tu c'hai una macchina complessa da gestire com'è il Partito Democratico, devi dire sì, possiamo fare di più e meglio, sì. Forza ragazzi, forza che è lunedì. È lunedì per l'appunto e un secondo prima di entrare in diretta succede quello che non deve succedere mai a me che porto la carta e una bottiglietta d'acqua. Mi si rovescia la bottiglietta d'acqua sui giornali di carta della rassegna stampa. Ah. Le imprecazioni, signori, le imprecazioni che sono volate fuori dallo studio di Radio 24 qui in via Monterosa a Milano. Alino, il primo debosciato sei tu! Allora, sono le 6:32 minuti ed è lunedì 9 maggio, siamo in diretta come sempre, qui c'è Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, vi lascio stare le battute di Peter Bescapè quando ha visto la mia acqua rovesciarsi anche su parte della camicia, i pantaloni, oltre che sulla carta, ovviamente, questa è la cosa, la camicia non importa, posso stare bagnato anche tutto il giorno, i pantaloni non importa, sembra che mi sia pisciato addosso ma non fa niente, è il dramma della carta e degli articoli ricoperti di acqua che ora per la rassegna stampa non lo so, sei mica un accendino che li riscaldiamo un po'. Vabbè, in qualche modo si farà, eccoli qua, tutti un bel ammappone di carta bagnata. Prima o poi doveva succedere, quando ti chiamano in onda e tu corri. Vabbè, allora, Renzi si è presentato da Fabio Fazio, annuncia che abbiamo un nuovo ministro, Carlo Calenda, mandato 40 giorni fa a Bruxelles, ha fatto il lavoro più veloce del mondo a Bruxelles, ha detto ha accumulato esperienza e torna a fare il ministro. Ma porca miseria, io speravo nel mio amico Chicco Testa, invece non gliela ha fatta. Vabbè, Carlo Calenda, richiamato da Bruxelles dopo 40 giorni, ripeto, il lavoro più veloce del mondo, e torna a fare il ministro. Siamo qui, intanto Renzi è andato da Fabio Fazio per l'appunto, insomma uscirà anche dal forno a microonde in questi mesi fino al giorno del referendum, un po' ovunque lo vedremo. Rassegnatevi, oppure se siete contenti, siate contenti. Allora, attaccare! Saranno notizie annacquate, ci scrive un ascoltatore via sms al 349-238-6666, mentre Marcella da Bucarest ci ascolta, Marcella, e dice: sicuro che non era vino? No, non era vino. A Peter Bescapè forse si rovescia il vino sulla rassegna stampa. Meno 3 giorni a raduna d'asti, Peter è molto contento, l'alpino... Sì, poteva rovesciarsi sul microfono, effettivamente l'acqua era peggio. Allora, saluto subito la nostra, insieme all'apertura del Parlamento, non il ministro Boschi, ma la nostra Veronica. Buongiorno. È Veronica Gentili, buongiorno. Buongiorno, che hai fatto? Ti sei ubriacato davvero ieri, adesso stai coi postumi, rovesci l'acqua. No, è veramente, ho rovesciato l'acqua sui... Lascia perdere, una tragedia, non ironizzare su questo perché non si legge già più niente qua sulla rassegna. Vabbè, ma c'è chiaramente un destino superiore che vuole dirti che tutto quello che avresti letto sui giornali oggi sarebbe stato soltanto lacrime e sangue, quindi strano, forse è meglio così. Strano, perché strano. Oggi i giornali aprono con un tema inedito e mai visto negli ultimi 30 anni, il rapporto tra politica e magistratura. No, non mi dire, non ci posso credere. Sì, signori, sì, no. sì. Ma proprio oggi hai rovesciato l'acqua, tu. Proprio oggi che c'era un tema così. Emigrare in Namibia, dove sicuramente i giornali sono più vivi in questo, insomma, in questo, almeno girare le notizie. No, invece sì. Poi ti asciugava prima l'acqua. Esatto. La nostra vera... Esatto, in Namibia. Mettevo l'acqua sotto il sole della Namibia. Era già fatta la cosa. E per la rassegna stampa stavamo a posto. Allora, insieme a Veronica Gentili, la nostra pensatrice del Fatto Quotidiano, voglio salutare il nostro grande... con il destro! Oh, finalmente! Una domenica con la Juve che perde! Attenzione! Buongiorno. Vedi che hai le tue piccole consolazioni, ce le hai, insomma, sì, no? Sì, poi, sì. Insomma, poi il giorno dopo ti perdi un bicchiere d'acqua e lo rovesci sui giornali. Esatto. Però, vabbè. È il nostro Federico Novella. Dimmi un Buongiorno. Po', caro Federico, sì. Come si vive da arroganti juventini? Sì. Una sconfitta come quella di ieri, cioè godete anche un po', cioè briciole agli straccioni. Sì, esatto, cioè proprio quando dice lasciamo vincere un po' anche gli altri, sì, perché sennò poi sembriamo antipatici. Esatto. Capito? Allora no, c'è una soddisfazione in più, insomma, no. Quello di poter perdere quando vuoi, insomma. No, vabbè, comunque vorrei tranquillizzarti, siete antipatici, adesso non è che sembra... prendere un asciugacapelli per i tuoi giornali, dai. No, poi diventa guano. Casino, esatto. Poi, capito? Esatto, sta diventando come no, ma quando guano è già guano, perché gli elementi ci sono tutti e due, quindi no. Fai una cosa, prendi il giornale di una settimana fa, tanto non notiamo la differenza. Sì, anche di 30 anni fa, se non sempre questo. Anche sì. Esatto. Potrei sì farne ormai una palla da come quando si giocava a calcio da bambini, sì, esatto. Si bagnavano le pagine dei giornali e diventavano così. No, però non scherziamo, perché su quelli di oggi tu c'hai scritto: Berlusconi plaude ai magistrati coraggiosi che segnalano i rischi di una deriva autoritaria. Sì, sì, tu 20 anni fa l'avresti mai trovato? No. Comunque, cari amici, qui c'è da dire che l'acqua avanza, non era grappa, basta con queste battute, il nostro ascoltatore era grappa, era vino, cioè, no, non era niente di tutto ciò. Il nostro Federico Novella pronto con Mattino 5, come va in tangenziale? Oggi a Milano piovigina un po'. Molto bene, quindi... tra l'altro sono condannato a Veronica Gentili, non so se lo posso dire Veronica. No, ma infatti mi chiedono... Una condanna, è una persecuzione. Mi chiedono questa cosa, quando la vediamo in TV, ma sei in TV dopo da Federico Novella? Ebbene sì, oggi facciamo un after hour, Federico. Ormai... Sì, sì, ormai... Infatti, Sì, ma non c'è neanche il camionista rumeno per strada, è lì con te per caso? No. Sì, è per forza, abbiamo fatto colazione, mi ha chiesto, io posso dare aiuto a Milan per giornale? No, ormai Veronica Gentili ormai vive in tv, quindi perché mi chiedete quando la vediamo in tv? Basta che accendete il mattino, la sera, il pomeriggio, Veronica Gentili è lì. Comunque, cara Veronica, sei contenta che il tuo amico Matteo dice che c'è la... La questione morale, vedi? Ma vedi che non si è annacquato anche il cervello, tre giornali, vedo, perché la memoria oggi ti serve tanto, Ale, te lo dico. Senti, aggrappati alla memoria, perché non avendo la carta, se no siamo rovinati. Ma perché mi tratti così? Ma perché no, mi tratti così? Sciocchina, io non ti tratto così, però ti do delle sollecitazioni. Ma ha detto ancora sciocchina, è la terza volta che mi dà della sciocchina in onda. Siamo uomini sottomessi tra le mura domestiche, adesso no, anche scusa, al lavoro. Già vengo trattato male a casa, adesso sciocchina pure. Allora, pensa che ti dicono quando torni a casa oggi. Allora, la questione è questa: cioè, tu che dicevi che Renzi fuggiva sempre dalle responsabilità, eccetera, invece vedi, sì, certo, c'è una questione morale. Io penso che Renzi sia un uomo di fine intelligenza, e quindi il lavoro sporco non lo fa lui, ma lo fa fare ai suoi pasdaran che distribuisce nelle trasmissioni e che, poverini, devo dire, un po' compatisco, perché ormai coprirsi di ridicolo dovendo andare a sostenere l'insostenibile, quando poi il Presidente del Consiglio un'ora prima, un'ora dopo va lì e fa bella figura illuminato, chiaramente non è il massimo. Però siccome non è affatto una persona sciocca, sa perfettamente che adesso sarebbe fuori luogo, e in più già c'ha ala con Danna e i verdiniani che dicono l'attacco della magistratura come ai tempi di Berlusconi. Siccome lui non vuole diventare così nell'immaginario collettivo, e già insomma diciamo che siamo un passo avanti, ieri ha voluto fare questo riconoscimento, questa presa di coscienza. Senti, e quindi... la sento un po' con le unghie sui vetri, caro Federico. La sento un po' con le unghie sui vetri. È spiazzata da questa uscita di Renzi. Però cos'altro poteva dire Renzi, obiettivamente? No. Cosa poteva dire? No, non c'è nessuna questione morale. Noi siamo puliti, è una guerra che ci sta muovendo la magistratura. Sarebbe stato aprire un nuovo fronte di battaglia apertamente con la magistratura. Poi non è che abbia fatto questa grande ammissione di responsabilità, cioè lui ha detto: noi siamo così tanti a gestire, amministrare il territorio, che più o meno qualche mela marcia potrebbe anche esserci, potrebbe. Non è che sia stata sta grande confessione, questa grande ammissione, no? Vabbè, non è chiaro, trovi? No, è chiaro. No, sì, ha detto è un'enorme comunità, bisognerebbe poi comunque... fargli presente che la comunità l'ha fatta a pezzi lui, però comunque è un'enorme comunità, vabbè. Quindi qui dentro possono succedere tante cose, effettivamente si pone la questione statisticamente, morale. Statisticamente non ha tutti i torti, cioè quando tu hai, adesso dice, 50.000 amministratori in tutta Italia. No, dai, sciocchina, non difendere l'indifendibile. Ma non difendo niente, è una questione statistica. Buona. Tu lo sai che io non difendo niente, nessuno. Tant'è vero anche nella statistica che non è terreno, stai buonino. Ma no, ma lascia stare. Allora, tanto è vero che non devo difendere nessuno, che lo dico subito qui: quando Maria Elena Boschi va in un comizio, purtroppo non abbiamo trovato l'audio, e dice chi sta con il no al referendum sta con Casa Pound, dice un'immensa minchiata, perché voglio dire, sì, certo, Casa Pound è per il no al referendum, ma anche molti di sinistra, anche Veronica Gentili, cioè dare a Veronica Gentili di una di Casa Pound, cioè capisci che... No, ma con tutto il male che si può pensare delle mie posizioni politiche, voglio dire, darmi del Casa Pound proprio, quindi vedi no? Che non devo difendere nessuno, io sono così. No. Possiamo trovare mille difetti a Veronica, ma quello proprio no. Poi quando mi troverete a militare con Casa Pound ne riparleremo, però... Però è una strategia inquietante quella di dire: io ti faccio un referendum con 4.000 articoli che cambia la Costituzione, siccome poi leggo la vita del governo al referendum, chi è contro il referendum è contro il governo, è contro la democrazia, è contro l'ordine civile. Questa cosa hai ragione, guarda, l'ho già detto, è insopportabile. Cioè saremo in una situazione in cui tra qualche mese non voteremo per una riforma o contro una riforma che uno magari si studierà e dirà mi piace o non mi piace, voteremo pro o contro contro, appunto, con queste frasi. Se voti no, sei come quelli di Casa Pound. Ma, cioè, ma vi rendete conto? Cioè, si dovrà, capisci, votare per la Costituzione. No, ma anche senza arrivare agli estremi di quello che ha detto la Boschi, per questo ti premetto che Renzi è molto più astuto delle persone che ha intorno, perché una gaffa così non la farebbe mai. Ma comunque diventa quelli che vanno avanti contro quelli che restano indietro, capito? I futuristi contro i passatisti, è tutto, sì, così. Sì. Allora questa cosa fa sì che un referendum molto complesso, perché appunto il governo Renzi non durerà in eterno e la riforma della Costituzione invece resta lì. Allora la riforma della Costituzione andrebbe spiegata minuziosamente, vista, e poi chiederà alla gente un parere, volendo anche spacchettando i singoli articoli, visto che sono tanti, tantissimi. Sì. Quindi se uno ritiene che ci sono degli aspetti buoni, cosa opinabile, ma insomma, può vedere quelli. Nel momento in cui loro in primis veicolano il messaggio che il governo Renzi se ne va a casa e ci lascia qui soli, disperati, nel momento in cui votiamo di no, che tutto qua nel referendum è già fallito, il contenuto del referendum è già chiaro. Andato. Comunque, allora, qua abbiamo vari ascoltatori che ci dicono, ecco, per esempio, oltre ad essere di Casa Pound, sentite questo messaggio soprattutto per Veronica Gentili: vergognatevi al soldo di Berlusconi. Ora adesso, non lo so, Federico Novella lavora Mediaset, quindi tecnicamente, sì, vabbè, ma non mi paga lui, ecco. Tecnicamente, insomma, vabbè. Ma Veronica Gentili, anche questa al soldo di Berlusconi. Io non sono so, proprio Veronica, al soldo. Ecco, ma è peggio tu di Casa Pound o al soldo di Berlusconi? Cosa ti offende di più? Dai, ma forza. Si possono fare entrambe le cose. Sì, no? Esatto. Tu vorresti partecipare a entrambe. Guarda, non lo so, quando entriamo è come dirmi che sono bionda e non lo so. Sì, Non saprei nemmeno dirti. Vabbè. Trovo un tale livello di fantasia che mi viene anche difficile offendermi. Va bene, ti viene difficile. Allora, intanto, preparate il selfie se non l'avete già mandato, mi raccomando. No, Federico è una sola. Federico, fai il selfie stamattina, altrimenti vengo Veronica con Burca. Gentile è già pronto. Lo facciamo insieme il selfie stamattina. Ma perché sei a Milano? Sei a Milano proprio in studio? Guarda come si arrabbia, sì. Vabbè, non dico niente, no, se non il messaggio sui giornali che sono già bagnati. Se non il messaggio, se non il messaggio da Andrea dall'Autolaghi che ci dice: io da Veronica mi farei pure frustare. È il momento del traffico, assolutamente. Vai, il traffico. Mira, mandami il traffico. Mandami il traffico, altrimenti a schifeo finisce. Ciao Milan, ma sai che penso che Renzi sia figlia del diavolo? Adesso mando in pensione la gente del 51, 1951 e del 53, se nel caso che abbiano 65 e 63 anni. Con la decurtazione, questo è veramente un castigo di Dio, è veramente un maledetto, cazzo. Ciao Milan, il fatto delle buche di Roma non si potrebbe risolvere con un campo da golf. Milan, sono Fiorentino. Senti, perché non organizzi le primarie tra Veronica e Marione Adinossi? Io lo voto tutta la vita Marione Adinossi. Ti saluto, buona giornata, ciao. Oh Milan, ma se invece che te si candidasse la Gentili a Roma, è bella, è romana, piuttosto che te che ce la fai a mantenere in piedi questa trasmissione, ma ritirati. Vabbè, diciamo mi sembrano che... quattro messaggi illuminanti. Mi sembra che il mio... Stamattina ci siamo superati proprio. Ma guarda, d'altronde le liste sono state presentate, ma se c'è gente che manco ce la fa, Stefano Fassina, per esempio, è fuori, farà ricorso? Povero, farà ricorso. Povero, hanno sbagliato a compilare le liste. No, ma è proprio quelle cose che ti viene da metterti le mani nei capelli e dire solo poveri. Ma io spero che tu stia scherzando, però insomma, Federico, ma fai no, qualcosa. Ma Ubi Maior proprio, che fai? C'è l'autosabotaggio in endemico, capito? Vabbè. Non comunque ce la possono fare. No, lasciamo un attimo la politica, voglio far sentire alcune cose. La prima è questa. Allora, questa settimana ci sono le unioni civili, allora si vota. Federico, sei pronto? Sono pronto, guarda, entusiasmo, guarda. Io, ragazzi, ti ho battuto. Palle, ragazzi, eh? Ti ho distrutto il morale. No, veramente, guarda, una settimana veramente entusiasmante. Veronica, verrà a picchiarti oggi in studio per questa tua... Esattamente. Ma soprattutto non capisco perché l'entusiasmo quando finalmente potete legalizzare la vostra unione e smetterla di stare in casa con delle mogli, ragazzi. Smetti la sciocchina. Allora, intanto, mi prenderò le mie vendette, vai. Intanto, sentite qui... l'onorevole del Movimento 5 Stelle Martelli che parla di questa cosa. In Italia non si è avuto mai il coraggio di mettere in discussione il fatto che il matrimonio debba essere una cosa binaria a due. Anzi, sì, questa cosa viene continuamente venduta come famiglia naturale. Ma naturale di che? La natura non prevede questo. Allora, se uno voleva veramente fare qualcosa di avanzato, doveva prevedere qualche cosa di plurimo. Perché non possono sposarsi più persone? Ah. Stipulano degli accordi multipli. Ah. Questo è un livello di tutela sociale. Ah, perché però, se veramente si dice che l'amore deve essere libero, allora anche 4, 5, 6 persone debbono potersi sposare. Però, con le evidenti economie di scala che si ottengono. Economia di scala. Tutela dei minori. Perché se un bambino ha più genitori, non è più ostaggio delle eventuali liti tra due. Le economie di scala. Non fa una piega, però. Anche secondo me ora tu io non ho capito niente. Niente ho capito. Se non che vuole l'amore libero, trombare tutti insieme. Io ho capito matrimonio multiplo. Matrimonio multiplo. Matrimonio multiplo, è bellissimo. Praticamente noi che parlavamo del trisom siamo desueti, un po' anagronistici e datati. Anche un po' bacchettoni. Bacchettoni e moralisti. Oggi vado a casa tranquilla, mi metto di fronte a mia moglie e dico: cara Francesca, ho scoperto che c'è una proposta nuova sul tavolo, il matrimonio plurimo. Così smetteranno di mandarti il messaggio: se fossi tua moglie quante botte ti darei, capito? A quel punto poi in mente fossi tua moglie quante botte ti darei, cretino d'un Milan. Ci siamo dimenticati la seconda parte, sì, in effetti. Sì, vi ringrazio, perché c'è la versione soft e la versione hard proprio. Vabbè, la noi l'abbiamo sostituito con sciocchina. Sciocchina. È interessante, ma è soltanto un difetto c'ha questa proposta, sì, ma anche suocere multiple, cioè, siamo sicuri. Esatto. Quello può essere problematico. Suocere, suoceri multiple. Vabbè, insomma, Martelli, Movimento 5 Stelle, perché no l'amore libero è proprio... Ma quando risale questa cosa? Ma credo venerdì, non so, giovedì, venerdì. Perché è una cosa recente, mica una roba... Cioè, tu è una appena cosa... l'hai scoperta, hai voluto informarci di questa possibilità che si abbassa. Esatto. Vabbè, insomma, caro Federico, di che cosa parlerai con la qui presente, anzi lì presente Veronica Gentini? E fatelo spiegare da lei, vediamo se è preparata. Vediamo un po'. Pure. Ti ricordi la lezioncina? Allora, ho l'ordine del giorno giusto appunto davanti a me. Parleremo delle amministrative, in particolar modo sì, ci focalizzeremo attorno alla città di Torino, parlando anche del racconto delle case abusive, sì, quindi degli sgomberi e tutte queste storie. Vabbè, della Lega, adesso un sunto, giù voi. Adesso non è che ci deve mi raccomando, puntuale, non arrivare in ritardo come la volta scorsa. Senti, 10 minuti sono proprio accademici, quindi entro in diretta, tu ormai siamo proprio un amico, siamo e proprio poi Brennero, a questi livelli. E poi il sindaco di Londra musulmano, il sindaco quello, musulmano lì vado fortissima, perché nel Brennero sono stata inserita in corsa, ma ce l'avevo già nel DNA. Allora, a proposito di musulmano, ti suggerisco questa notizia, caro Federico, che trovi sì, oggi sui giornali, sulla stampa. La leggo come la trovo sui titoli. Capretto sgozzato, questa ci vorrebbe Cruciani a commentare questa notizia. Capretto sgozzato in strada da due musulmani rom. I giudici li assolvono perché dicono che diciamo, le usanze religiose sono prevalenti sugli animali, sulla sofferenza inflitta agli animali. Questa ci sono proprio tutti gli ingredienti per farci una bella notizia. Ah, beh, in effetti, la resa totale dello Stato. Musulmani, proprio. Capretto sgozzato, cioè, c'è proprio tutto. Sono quelli come Veronica vorrebbero come sindaco, no? Questi signori. Esatto. Hai capito? Tu vuoi sindaco o uno che sgozza le carte? Io vorrei che sgozza il capretto e ognuno, capito, realizza i suoi culti liberamente senza nessun tipo di problema. No, ma cioè, ragazzi, ma guardate che questa può essere derubricata, ma per i giudici la libertà religiosa prevale sulla crudeltà nei confronti degli animali. Cioè, vedi che la notizia di politica e magistratura la puoi declinare in tanti modi. Stamattina sei stato fantasioso non avendo i giornali essendoci l'acqua sopra. Esatto, sì, è che è finita l'acqua sulle prime pagine, quindi devo a dire la verità, la maggior parte delle notizie te le sei inventate perché non riuscivi a leggere. Sì, ma queste le ha prese tipo su Novella 2000 del del 92. Ti giuro, e non è una notizia secondaria. Non è una notizia, infatti, la stampa la mette in prima pagina. Guarda che non è una notizia. È rimasta solo la stampa. Eh? Io sono sicuro che oggi a mattino 5, dopo le 9, ci sarà un riferimento a questa cosa. È un po'... Secondo me sarà la domanda clou che mi farà Federico. Dopo il sindaco di Londra mi chiederà: ma secondo te, se ci fosse un sindaco aperto a questi generi, e tu dirai: ma basta ste notizie da sciocchina, pubblicità. E farò un occhiolino pubblicità. Che nessuno capirà. Va bene. Sarà la mia firma recondita e nascosta sulla puntata di oggi. Vi devo mollare, vi devo salutare. Dunque, Veronica Gentili, sei a Milano e non hai avvisato. Bene, molto bene. Segnare, prendere nota, caro Peter Bescapè, caro Lorenzo Nespoli, segnare. Mandate i selfie, amici, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza signori, che è lunedì e la 158esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già ben cominciata. E voi che fate? Allora, siete rallentati dopo i vostri weekend fatti di scorpacciate, abbuffate, gite fuori porta o lavoro intenso o pigrume sul divano? Chi lo sa? Intanto, cari ascoltatori, siamo qui pronti a leggere i giornali. Il rimedio è stato preso, visto che prima ho raccontato che inopinatamente ho rovesciato una bottiglietta d'acqua sui giornali appena strappati, creando una mappazza difficilmente distinguibile, ma ce l'abbiamo fatta, sono abbastanza leggibili e allora andiamo a leggerli. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È lunedì 9 maggio, intanto i titoli. L'apertura del Sole 24 Ore è sull'evasione fiscale, dallo spesometro alle indagini finanziarie, tutte le priorità dell'Agenzia delle Entrate. Evasione, tutte le mosse del fisco, questo è il titolo di prima pagina. E poi, incredibilmente, in questa macchina del tempo, che ogni tanto sono i quotidiani e ci riportano a un già visto degli ultimi 30 anni, siamo ancora qui, e l'ho detto già settimana scorsa, a commentare il rapporto tra politica e magistratura che domina le aperture degli altri quotidiani. Per il Corriere della Sera, magistrati, niente campagne. È questo l'invito perentorio di Legnini, vicepresidente del CSM. Cautela sulle dichiarazioni. Repubblica, il CSM avverte i giudici, toghe via dalla politica. Mentre per il Messaggero, CSM ai magistrati, basta comizi. Lo stesso è il titolo anche per il Fatto Quotidiano, ma polemico, la mordacchia. Tutti zitti, può parlare solo lui. Renzi dilaga e racconta bugie da Fazio. Per la Stampa invece l'autocritica di Renzi: nel PD abbiamo una questione morale. Era sempre uno stralcio della intervista ieri a Fabio Fazio, con Fabio Fazio. Per il Giornale, tutte le tasse invisibili, fisco diabolico, il titolo di prima pagina, mentre Libero, il dossier previdenza in pensione prima, ecco come andarci. Allora, voglio partire però da una circolare beffa, così la definiscono Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella riguardo al gioco d'azzardo legalizzato. La circolare beffa sulle slot machine che ne autorizza 40.000 in più. Sono le distrazioni colpevoli che agevolano il gioco d'azzardo per Rizzo e Stella. Protestano le famiglie di chi si è rovinato, insorgono le associazioni antiusura, si indigna Papa Francesco. Tutto inutile. Per arginare il gioco d'azzardo ci vorrebbe un miracolo, dalla parte giusta però, perché i miracoli accadono, ma sempre dalla parte sbagliata. L'ultimo è quello delle slot machine. Intima una legge che il loro numero si riduca del 30% in 4 anni. È cresciuto del 10,6% in 4 mesi. Siamo arrivati a 418.210, 3 per ogni bar. Dal 2007 al 2014 gli italiani indigenti sono aumentati da 7 milioni e mezzo a oltre 10 milioni. Ma mentre la soglia della povertà si spalancava per il 16,6% della popolazione, il business dell'azzardo lievitava del 350% fino a 84 miliardi. E allora, ecco, è una lunga storia, una circolare beffala, inizia a pagina 1, poi continua a pagina 17, un'intera pagina. In questa circolare beffa, raccontano Stella e Rizzo, spuntano delle nuove slot machine che erano quelle nei magazzini, viene aggirata una legge che doveva ridurre del 30%, risultato, a fine dicembre, mentre gli italiani sono distratti dal Natale, la legge di stabilità arriva in Gazzetta Ufficiale, la sorpresa, salta fuori dalle liste dei concessionari un numero enorme di macchinette che si troverebbero nei magazzini e calcolando anche quelle il totale salirebbe a circa 424.000. Viene fatta una circolare che di fatto le rimette in circolo e quindi le autorizza a 40.000 in più negli ultimi mesi. È una questione annosa e tanto tanto dibattuta. Mentre c'è da dire che mi ha colpito l'articolo di Repubblica e riguarda una certa svolta del Vaticano in alcune sue persone, in questo caso nella persona del segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin, perché il cardinal Parolin è stato ripreso con una foto qualche giorno fa in una visita di Stato Vaticano a Vilnius, in Lituania, appena sceso da un aereo Ryanair, un aereo low cost. Ed ecco allora che è diventato un caso. Paolo Rodari, che è vaticanista di Repubblica, scrive: Parolin vola a Vilnius con l'aereo low cost. È l'ultima svolta in curia. Il segretario di Stato sceglie di viaggiare Ryanair e il Vaticano dice è stata una sua decisione personale e dunque proprio per questo motivo significativa, non essendoci in merito direttive generali da parte della Santa Sede, il volo di Parolin diviene un segnale che egli dà a tutti, anche i cardinali in sostanza possono e devono dare l'esempio. Del resto così faceva anche Bergoglio quando era cardinale. Dunque questa decisione personale che però fa in qualche modo discutere con un certo tipo di svolta per la Chiesa, ecco, che viene segnalata da Repubblica. Mentre questa è una segnalazione che mi preme dare, che riguarda una notizia di cronaca estera, però ogni tanto ci sono delle belle pagine che vanno lette. Proprio nel momento in cui l'Italia si sta impegnando in Iraq, nel nord dell'Iraq, in precisione a Mosul, dove sta per partire una missione militare per difendere una diga importante nel nord del paese, e infatti il giorno dedica una pagina a questo, scatta la missione, c'è il ministro della difesa Pinotti che è in viaggio verso Mosul per cercare di capire quali sono gli aspetti tecnici da seguire. Ma a proposito appunto di una pagina che voglio segnalare, sul Corriere della Sera, pagina 15, c'è una intera pagina dedicata proprio alle testimonianze da Mosul, come si vive nella città un tempo molto libera e poi dopo l'arrivo dell'ISIS davvero piombata nell'orrore. Marta Serafini racconta: ti prego non scrivere il mio nome, non parliamo molto. Bassam, nome di fantasia per proteggere l'identità, strizza gli occhi nella polvere del campo profughi di Ashti, 20 chilometri da Sulaimania. Sono scappato da Mosul, ma mia madre è rimasta. Sono fuggito in automobile 8 mesi dopo che l'ISIS è entrato in città, era il giugno del 2014. Ho pagato $700, mi sono messo in salvo con moglie e figli, ma non avevo soldi a sufficienza anche per mia madre. E si racconta l'arrivo dell'ISIS, quando salì sul pulpito della moschea di Al-Nuri per proclamare il califfato con il Rolex che scintilla al polso, un imam autoproclamatosi. Immagini del sermone che girano in tutto il mondo, sono le uniche immagini di al-Baghdadi. Appena finito di parlare, tutte le comunicazioni si sono interrotte, racconta Bassani. I miliziani hanno preso il controllo dei gestori telefonici, hanno tirato giù le reti e ora per parlare è tutto controllato. Se usi il cellulare ti tagliano la testa. Così con mia madre cerco di parlare in codice. a tutte le donne è stato imposto l'uso del niqab, il velo integrale. So di ragazzine e bambine picchiate e punite perché erano salite sul tetto a prendere aria a volto scoperto. Per le schiave dell'ISIS la prigione è il Ninawa International Hotel, palazzone con 262 camere. Qui vengono a sposarsi i miliziani del califfato. Si trascinano dietro le ragazze e si rinchiudono lì per giorni. La chiamano luna di miele, ma dicono che sia l'anticamera dell'inferno. E continua il racconto da Mosul a pagina 15 del Corriere della Sera. Trovate questa... questo reportage di Marta Serafini che vi voglio segnalare. Ed eccoci qui, siamo al premio Mani sul Volante. Se siete alla guida, l'articolo che mi fa pensare della giornata, tenete le mani ben salde, niente pugni, niente mosse improvvise, repentine. Io questo articolo ho dovuto leggerlo, come capita a volte con quelli da Mani sul Volante, 5-6 volte almeno nel titolo. C'è sulla Stampa, per la verità c'è anche sul Secolo XIX, giornali collegati, in prima pagina. Matteo Indice racconta questa storia, riguarda una sentenza, riguarda un capretto sgozzato e riguarda due rom musulmani. Capretto sgozzato in strada, assolti due rom musulmani. Matteo Indice, c'è un limite alla pena che si può infliggere anche agli animali in nome della religione? A leggere una sentenza della Corte d'Appello di Genova parrebbe di no, prevale la fede. Perciò sono stati assolti due rom che avevano massacrato un capretto, macellandolo con rito islamico senza autorizzazioni. Una procedura che sarebbe consentita dalla legge rispettando certi paletti, ma le sevizie inferte erano stati così brutali che in primo grado li avevano condannati, finché altri magistrati non hanno ritenuto prevalente la spiritualità degli umani sul dolore delle bestie. Non solo, i medesimi giudici nel decretare l'assoluzione hanno ribadito che la legge non tutela l'animale in sé, ma semmai il sentimento di pietà degli uomini nei suoi confronti. E quindi, se quest'ultimo non viene intaccato, si ha in buona sostanza carta bianca. Il capretto era stato sgozzato in mezzo alla strada, appeso a testa in giù, lasciato morire dissanguato e, al di là della pena scattata dopo il primo processo, con sanzione da 4.000 e 6.000 euro, poi c'è stata la assoluzione in appello. Per i giudici, infatti, il rito religioso prevale sulla crudeltà verso gli animali. Non è possibile una roba del genere! Vergognatevi, cazzo! State ascoltando un programma offerto da Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Scegli una realtà che vale. Messaggio pubblicitario. Alessandro Milan, la step il, la step calda adoption dell'informazione. Quella roba lì, grande, è stato uno dei momenti più alti del dibattito al Senato, sentire stepchild adoption pronunciato da vari esponenti parlamentari nostri. Allora, cari ascoltatori, no, beh, vedo che tantissimi messaggi arrivano su questa notizia, sì, a me ha molto colpito. Ebbene sì, il capretto sgozzato in strada, assolti due rom musulmani, mi chiedono anche alcuni dettagli, allora... Li do di più sul giudice, il giudice che ha deciso, si chiama Mauro Amisano, che ha deciso l'assoluzione di questi due rom, come scrive La Stampa appunto, e scrive: l'ipotesi di crudeltà verso gli animali presuppone concettualmente l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo, poiché la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla mancanza di un motivo adeguato, da una spinta abietta, futile, ma una pratica come il sacrificio rituale musulmano, che è di per sé crudele se parametrata alla sofferenza inflitta, non può essere considerata illecita poiché esplicitamente ammessa per il rispetto dell'altrui libertà religiosa e quindi non lesiva del comune sentimento di pietà. Per cui hanno sgozzato il capretto per strada, secondo il rito musulmano, ma sono stati assolti. Vabbè. Passiamo oltre e passiamo alla notizia con cui aprono molti giornali. È incredibile, è da 30 anni che siamo cresciuti con questo dibattito, eppure questo dibattito non ce lo scrolliamo di dosso e non ce lo scrolleremo mai forse. Il rapporto tra la politica e la magistratura. Sempre sullo sfondo ci sono le dichiarazioni del magistrato del CSM Morosini rilasciate al Foglio, poi parzialmente da lui smentite, confermate dal Foglio stesso. Di fatto, ieri però Giovanni Legnini, intervistato da Maria Ratella su Sky TG24, ha detto in pratica che c'è un divieto per i magistrati di partecipare a campagne politiche e questo referendum costituzionale si è caricato di un significato politico. Quindi ci sarebbero ragioni che suggerirebbero cautela perché il giudice deve sapere coniugare il suo diritto a esprimere opinioni con la necessità di assicurare terzietà. Insomma, Legnini, che del CSM è il vicepresidente, ha fatto questo invito alla cautela. Più che invito, ha parlato di divieto di partecipare a campagne politiche. E dunque, ecco che anche Giannelli fa una vignetta di prima pagina del Corriere della Sera con Mattarella, che del CSM, essendo il capo dello Stato, è il presidente, il Consiglio Superiore, e c'è Mattarella che col dito indice alla bocca dice silenzio, il bavaglio ai giudici, il bavaglio ai magistrati, tutti i magistrati possono schierarsi, reagisce il consigliere del CSM Ardituro, intervistato da Giovanni Bianconi a pagina 3, mentre il Fatto Quotidiano attacca così: tutti zitti, può parlare solo lui. Insomma, capite che questo dibattito, che certamente, io lo so, non appassiona voi e non appassiona, credo, 80 se non 90 italiani su 100, eppure è ben presente e sviluppato sui giornali come la notizia del giorno. Per la verità, dovremmo avere anche un nuovo ministro. Questo ieri Renzi ha annunciato in diretta TV da Fabio Fazio, perché si è sciolto il nodo, il nuovo ministro dello sviluppo economico dopo le dimissioni di Federica Guidi sarà Carlo Calenda. Ma come, dirà qualcuno, Carlo Calenda, colui che fu mandato 40 giorni fa ambasciatore italiano a Bruxelles perché era importante che lavorasse lì? Sì, lui. E infatti Renzi dice: l'ambasciatore a Bruxelles torna. Lo avevamo mandato a Bruxelles, ma non immaginavamo lo scandalo dell'inchiesta di Potenza. A noi serve uno importante che sia in grado di maneggiare il ministero, uno che già governava la macchina, che sia in grado di impostare un lavoro proiettato sul futuro, e Calenda è la persona giusta. E dunque, nonostante sia stato mandato a Bruxelles poco tempo fa, viene richiamato in Italia e farà il ministro allo sviluppo economico. Intanto si discute molto delle amministrative. Perché? Perché sono state presentate le liste. Soprattutto c'è stato un caso, e c'è un caso Fassina a Roma, l'ex ministro dello sviluppo economico, che poi è uscito dal governo, è uscito anche dal Partito Democratico, si voleva candidare a Roma per la sinistra, è stato escluso insieme ad altre liste, escluso, ma lui è il nome forse più eccellente, per errori formali, date mancanti nella presentazione delle liste, che è una cosa tutt'altro che semplice. Fuori Stefano Fassina a Roma, escluse a Milano anche la lista di Fratelli d'Italia, esclusa anche la lista Fucsia People, sempre a Milano, aveva l'unico candidato sindaco donna. A rischio a Cosenza due liste d'appoggio al nuovo centrodestra e al PD, leggo dall'articolo di pagina 8 del Corriere della Sera. La più clamorosa candidatura bocciata, o meglio in bilico, è quella di Stefano Fassina, che ha annunciato ricorso al TAR. Così anche a Milano Fratelli d'Italia con Ignazio La Russa assicura che si sta rimediando all'errore materiale. Perché, cari italiani, c'è sempre tempo per un ricorso in Italia, quindi vedrete che anche Fassina troverà il modo e si troverà il modo per farlo rientrare. Non lo so, può essere, vedremo, però non è ancora definitiva, diciamo che ci sono ancora i margini per dei ricorsi. In tutto questo, mentre Renzi parlava da Fabio Fazio, ha parlato anche Berlusconi, che ha lanciato la campagna elettorale di Stefano Parisi a Milano, ha rilanciato l'asse del centrodestra, ha parlato del rischio di regime se passeranno le riforme di Renzi, ha evocato ancora i quattro golpe che lo hanno fermato in passato: il primo è Tangentopoli, poi la caduta del primo governo Berlusconi, il complotto internazionale contro il suo ultimo governo e poi la sua incandidabilità al Senato. Insomma, quando perdeva era per un golpe, giusto per riassumere in maniera molto molto sintetica. E ancora dice: se a ottobre le sinistre perdono, ci sarà il governo di unità nazionale per preparare il voto. Questo dice Berlusconi. Mentre c'è il problema per il Movimento 5 Stelle che si chiama Livorno, dove il sindaco Nogarin ha annunciato lui stesso di essere indagato in una vicenda che riguarda la società di raccolta di rifiuti partecipata al 100% del comune di Livorno, che ha visto già un'indagine per l'assessore Gianni Lemmetti, ora è indagato anche lo stesso sindaco. La vicenda, come racconta Marco Imarisio a pagina 11 del Corriere della Sera, riguarda l'assunzione di alcuni precari che misero le tende davanti alla casa di Filippo Nogarin ad Antignano, reclamavano il posto di lavoro a tempo indeterminato promesso dalla precedente gestione. Il 27 gennaio furono assunti tutti e 33. Ecco che questo atto, firmato dal nuovo consiglio di amministrazione su precisa indicazione del sindaco, probabilmente è la causa dell'avviso di garanzia. L'accusa è di... qual è l'accusa? Credo di... Vai a trovarla. Comunque, insomma, è stato accusato, avviso di garanzia. Lui dice: se ho sbagliato è stato fatto un errore in buona fede. Questo dice Filippo Nogarin. E sta di fatto che la questione è: ma si deve dimettere? Non si deve dimettere? Beh, c'è grande dibattito nel Movimento 5 Stelle. Secondo il titolo di Repubblica, lascio se provano il mio reato, questo a pagina 8. Vabbè, caro Mauro Meazza, ti giuro che è una coincidenza, non lo so se oggi è il giorno degli endecasillabi. Comunque, caro Mauro Meazza, buongiorno. Io non voglio credere coincidenze, comunque sarà questione che... Comunque il reato è bancarotta fraudolenta, ecco, l'ho trovato, quello per cui è accusato Nogarin. Ne sono lusingato. No, pensavo il mio reato. No, era per concludere la notizia precedente. Va bene, allora io come ogni lunedì sto salendo sulla sedia per declamare gli endecasillabi del lunedì, che riassumono anche i contenuti del Sole 24 Ore oggi in edicola, alcuni dei contenuti naturalmente. Canon dimonio d'estate verrà, e riscuotendo ben dalle bollette. Ma chi pagar due volte non vorrà, il modulo spedisca in giorni 7. Leggi sul sole, più non ti crucciare, che quando avrai finito col canone, anche se sei sul giovanile errare, comincia ad integrare la pensione. Dell'unico diremmo mercoledì, quest'oggi ti narriamo dei controlli, che il fisco già incrementa notte e dì tra imposte antiche e sempre nuovi bolli. Conserva per il tuo bene anche l'esperto che del mutuo ti spiega in allegato, e puoi trovare giovamento certo se l'ebook sul sito avrai guardato. Sul calcio, infin, è un po' che mi sei mesto, e per il campionato sei a tarassico. Comprendo, non sei più neppure sesto. Chi è quarto ti saluta con il traffico. Alessandro Milan, la fatal Verona dell'informazione. Sì, sì, tra l'altro ho scoperto poco fa che domenica, l'ultima partita, noi siamo settimi, grazie a Dio non andremo in Europa, e lo spero vivamente. E poi soprattutto l'ultima sarà Sassuolo-Inter col cari cugini. Io se fossi in voi io farei apposta a perdere, così proprio non c'è dubbio che non andremo in Europa. Vi prego, fatelo, perché sarebbe troppo divertente. Allora, comunque, a proposito di amministrative, concludiamo. Vi segnalo il retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 5 del Corriere della Sera. Raccontano di un Renzi che da tempo va in giro a dire ai suoi collaboratori: referendum è l'elemento chiave della vita del governo, mentre le amministrative non hanno nulla a che fare con la tenuta dell'esecutivo. E questo è l'inizio dell'articolo. Insomma, sono giorni che Matteo Renzi ripete queste parole anche per un atteggiamento forse difensivo in vista di una possibile disfatta elettorale, ma insomma vedremo. Vi segnalo anche a livello europeo la vicenda migranti, ancora è ben sviluppata sui giornali. L'Unione Europea ha annunciato una novità importante: a caccia di terroristi negli hotspot, e cioè, come ha annunciato Manuel Navarrete, intervistato dal País, il direttore del Centro Europeo contro il Terrorismo. Nella gestione delle frontiere c'è sempre una componente di sicurezza, e allora verranno infiltrati decine di agenti nei centri per accoglienza di migranti in Italia e Grecia per scoprire i potenziali jihadisti. Questo è l'annuncio dato appunto dal colonnello spagnolo che gestisce il Centro Europeo contro il Terrorismo. E Europol sta seguendo l'appello della Commissione Europea dei Paesi membri, sta dispiegando specialisti del terrorismo negli hotspot in Italia e Grecia. E chissà se questo è già il primo risultato di ha portato a un arresto, per la verità. Insomma, questa vicenda, forse questa notizia riguarderà l'immediato futuro. Comunque, invece, riguarda il presente, l'arresto di un altro foreign fighter, come vengono chiamati, no? In Italia, racconta il Messaggero a pagina 11, arruolava in Italia preso foreign fighter. Un cittadino sloveno di 26 anni, ritenuto responsabile di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, oltre che di aver avviato un processo di radicalizzazione e reclutamento di aspiranti jihadisti in Italia, è stato arrestato ieri con operazione portata a termine dai carabinieri del ROS in collaborazione con la polizia slovena. E dunque una notizia importante. Vi segnalo anche, a proposito di notizie estere, un'altra pagina che non dovete perdervi, a mio modo di vedere. Rolla Scolari racconta per La Stampa un reportage da Misurata, e dunque dalla Libia, sul fronte della guerra che traccia il confine tra le due Libie. È la città che sostiene al-Sarraj, e cioè il premier messo dall'ONU, quindi, se volete, diciamo, banalizzare, il nostro amico, l'amico dell'Occidente, ed è la città che è minacciata invece dall'ISIS. È un reportage, viviamo in stato d'emergenza, così si prepara la città a fermare le mosse del generale Haftar, principale sostenitore di Haftar è l'Egitto, lo ricordiamo, mentre al-Sarraj è sostenuto dall'ONU, dalla comunità internazionale, da noi. Torniamo in Italia. Questa è una notizia di cronaca che ho trovato sul Giorno, a me ha messo una morsa al cuore pazzesca, eppure ve la leggo così. Bocca di rosa per fame a 79 anni. Succede, come racconta Daniele De Salvo, a Nibionno, in provincia di Lecco, dove una donna di 79 anni, che per la verità dice non è la prima volta nella vita, di tanto in tanto ha fatto la prostituta, non è bello, ma che posso farci? Ho una minima a 500 euro, mantengo mio figlio che è invalido, è cieco, non bastano i soldi, e per arrotondare l'assegno ha deciso a 79 anni di tornare in strada per prostituirsi. La storia viene raccontata dal Giorno a pagina 19. C'è lo sport, che per la prima volta non è solo il calcio. Oggi la notizia sportiva del giorno sicuramente è il ritorno di Alex Schwarzer, il marciatore trovato positivo in passato al doping e che è tornato dopo aver fatto tutta una marcia, una tabella di allenamento, e di dopo aver scontato anche la squalifica, allenato dal professor Sandro Donati, è tornato e ha vinto, quindi si può. Schwarzer, l'inferno doping è finito, sono ripartito da zero e ho vinto, andrà per questo alle Olimpiadi, è stato pesante, ho fatto anche il cameriere, dice in una serie di interviste, leggo dall'intervista al Giorno Leo Turrini. Ho chiesto scusa, sono un essere umano, ha sbagliato, ho pagato per il mio errore, non ho chiesto sconti, non ho invocato trattamenti di favore, sono stato processato, sono andato in tribunale davanti alle commissioni del CONI, ho fatto tutta la luce del sole. Cose da nascondere oggi non ne ho, sono stati anni duri, ho anche fatto il cameriere in Austria, sono ripartito da zero. Spazza via le polemiche anche in una domanda della Stampa. Ho chiesto scusa mille volte, ora basta, ai moralisti dico: chi ha perso di più per il doping, io o voi? Insomma, il ritorno di Alex Schwarzer. E allora qui tocca autocitarmi, perché su Libero, dove ogni lunedì faccio un'intervista, ho intervistato questo lunedì Danilo Di Luca, che invece nell'inferno del doping c'è piombato ciclista, fermato e trovato positivo due volte al doping, e oggi appunto nell'intervista che ho realizzato per Libero dice: tutti i ciclisti si dopano, siamo come bestie. Questo è il titolo, ha scritto un libro per raccontare lui il ciclismo e il doping. Dice Danilo Di Luca: ho scritto il libro per denunciare un sistema, scoperchiarlo, perché chi sale in bici è una vittima. Quando si è professionisti, la vita è fatta di allenamenti, sacrifici, sforzi e di doping. Nessuno ti obbliga, è vero, ma quando scegli di diventare professionista ti devi adeguare al sistema, oppure non corri più. E da professionista mi sono trovato davanti a una sola scelta: doparmi. Di base nel sistema c'è molta ipocrisia, e infatti racconta, dopo che è uscito il libro, ha fatto un'intervista alle Iene, è stato nuovamente querelato dall'associazione Corridori. Insomma, il sistema ti obbliga a assumere sostanze. Così Danilo Di Luca, è una storia, se volete, da mettere a fianco a quella di Alex Schwarzer, che invece è risorto dal doping e andrà dunque alle Olimpiadi. Ma eccoci qui alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Donne, è il momento della prova costume. Lo sapete, per alcune è già arrivata Pasqua, e allora Elisabetta Ambrosi sul Fatto Quotidiano dedica mezza pagina all'angoscia annuale della prova costume e invita le donne a dire: caro, fatela voi ai vostri maschietti, caro, l'hai fatta la prova boxer? Ma chi se ne frega!